Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Ci siamo, sono le 15.30 in punto, 15.38 secondi a Radio 24 ed è il momento del sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali in tutte le tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. E poi dalle 17 alle 18 la terza ora con il nostro consueto appuntamento con Radio Tube insieme a Daniele Bellasio, e oggi anche in studio un ospite clamoroso. Anche questo sabato abbiamo molte idee per i weekend d'autunno. No, ma passiamo subito al primo tema del nostro sabato pomeriggio. Ci portano in atmosfera robotica, mi piace molto, anche perché è un po' vintage per alcuni suoni. Mi piace un sacco questo pezzo di Daft Punk, questo Roborock. Chissà cosa ne dice il nostro Enrico Pagliarini. Ciao Enrico. Buongiorno, ma ho sentito dire che fra un paio di ore avrai un ospite clamoroso. Beh, anch'io però sono un po' un ospite clamoroso. Ma tu sei, no? Sempre il mio preferito. Peccato che okay. Io non sappia mai dove sei nel mondo. Sei sempre in luoghi misteriosi. Sì. Anche oggi. Vabbè, sì. Enrico, che cosa ci porti questo fine settimana come suggestione? Io ho detto che abbiamo delle idee per il weekend autunno. Anche tu hai un'idea per chi, ad esempio, questo fine settimana non sapesse cosa fare, dove lo porti? Dunque, allora, questo fine settimana diamo un po' di suggerimenti per i bambini, i ragazzi, quindi in qualche modo molti di noi hanno rapporti con bambini e ragazzi. O sono fanciullini dentro. Ah sì, certo, esatto, questo può essere un ulteriore stimolo. Parliamo di educazione. Allora, questo è un tema di cui ogni tanto mi occupo perché mi sembra molto, molto interessante cercare di capire come possiamo usare la tecnologia per migliorare l'educazione, i processi educativi, o anche solo un'altra delle domande che ci si fanno e che mi faccio è: cosa dovremmo fare per utilizzare la tecnologia che già i bambini e i ragazzi utilizzano per insegnare, certo, loro cose nuove? Perché è un po', come dire, la storia della penna, cioè dopo che si è passati dal calamaio alla penna, poi sono arrivate le macchine da scrivere, il computer, e una delle domande era: ma non è che possiamo continuare a utilizzare la penna se ci sono le macchine da scrivere, i computer, quando con le macchine da scrivere? Insomma, bisogna un po' adeguarsi all'evoluzione tecnologica, anche perché comunque sia i ragazzi lo fanno in altro modo. Ci sono scuole e insegnanti, purtroppo sono una piccola minoranza, ma sono molto tenaci, che proprio con questo tipo di ragionamento hanno fatto un passo molto in avanti e dicono: noi insegniamo solo con tablet, computer, con strumenti, certo, sempre connessi con il cloud, eccetera. Che poi eccetera. Sono quelli che sono abituati a usare i ragazzi ormai. Esattamente. Allora, è sicuramente un percorso molto complesso, perché stiamo parlando anche di una trasformazione di una parte importante della pubblica amministrazione, però devo anche dire che io faccio un applauso agli insegnanti che volontariamente e autonomamente vanno avanti nonostante tutto, perché molto spesso appunto ci sono delle scuole che sono punte di eccellenza nonostante le difficoltà della pubblica amministrazione, che comunque sta facendo qualcosa. Devo dire che il Ministero dell'Istruzione ha fatto percorsi in questa direzione, e negli ultimi anni c'è stata una accelerazione, pur con le tante difficoltà che noi conosciamo. Allora, uno dei temi, tra i tanti temi di cui si parla quando si parla di educazione e di tecnologia, riguarda la robotica. Mm-hmm. Sappiamo benissimo quanto i robot si stiano evolvendo. Sappiamo, insomma, perché lo conosciamo, ne parliamo anche noi a Radio 24 delle evoluzioni. I robot sono conosciuti soprattutto in ambito industriale. E che cosa c'entrano i robot con l'educazione? Cioè cosa può fare un robot per educare un bambino? Allora, io non lo so, e quindi ho invitato Pierluigi Lanzarini, che in questi giorni si trova a Roma al Maker Faire, che è una manifestazione molto importante in questo weekend a Roma. Lanzarini ha fondato un po' di tempo fa, ed è un esperto di questa materia, compustore.it. Lanzarini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ciao Enrico, buongiorno a tutti. Allora, iniziamo proprio dalla domanda più semplice: che cosa c'entrano i robot con l'educazione, ma soprattutto di che tipo di robot stiamo parlando? Allora, noi parliamo di robot educativi, sono quei robot che vengono utilizzati, sono stati progettati inizialmente per essere utilizzati a scuola intendo dalla scuola d'infanzia al mondo delle università. I robot educativi sono dei robot che hanno gli stessi principi di funzionamento dei robot industriali, ma assieme alla parte elettronica e alla parte meccanica vengono forniti con un design attento alle, a seconda dell'età dei ragazzi, e poi vengono forniti quasi sempre con software e contenuti didattici. Io sento sempre parlare di lavagne particolari, cioè qualcosa già si fa, però le possibilità sono immense. Sì, Marta, ma scusa, le lavagne sono una roba vecchia, ormai. Quello ormai è abbastanza assodato, ma ci sono moltissime nuove frontiere. Una di queste appunto è la robotica educativa, che è in parte anche l'evoluzione del coding. Il successo che oggi ha la robotica educativa nelle scuole italiane, nelle scuole in tutto il mondo, è anche legato a un processo che è avvenuto negli ultimi anni della diffusione del coding. Questo sicuramente ha aiutato. E poi l'altra cosa che rende sicuramente la robotica educativa interessante nelle classi è il fatto che riesci a coinvolgere i ragazzi anche che fanno più fatica a scuola, che comunque hanno difficoltà a fare la classica lezione di matematica piuttosto che di fisica o di italiano, li riesci a coinvolgere in modo diverso e fare un'educazione informale rispetto a quella formale del libro di testo di una volta. È come se imparassero una lingua nuova. Sì. Beh, il coding... Scusa. Sì, no, volevo dire che il coding, per chi non lo sa, è la programmazione. È un modo per insegnare ai ragazzi una cosa nuova, anche per soprattutto insegnare delle logiche diverse, non tanto i linguaggi di programmazione quanto delle logiche. E ovviamente, visto che questi robot per buona parte possono essere programmati, questo sviluppa tutta una serie di connessioni logiche all'interno dei ragazzi ed è un aiuto proprio in questa direzione. Confermo, perché se fai solo coding vedi qualcosa, un software a computer, ma non vedi nulla di reale. Se tu metti 10 ragazzi a far coding puro e 10 ragazzi a far coding con la robotica, vedi che il modo in cui riesci a coinvolgere questi ragazzi è completamente diverso, nonostante che magari scrivi lo stesso programma, perché vedono qualcosa che si muove, sì. Vedono qualcosa che molte volte devono anche costruire a seconda del robot, perché alcuni robot educativi arrivano costruiti, li programmi e basta, altri invece vanno fisicamente costruiti pezzo per pezzo. Certo, certo. Possiamo fare un esempio di un robot? Cioè, come è fatto? Perché non so se sono robot con le forme umanoidi o hanno delle forme strane. Come sono questi robot? Beh, diciamo che se partiamo dal fondo, partiamo dal robot umanoide. Il robot umanoide più noto è Nao. È un robot che simula in tutto e per tutto i comportamenti umani. Tanto è vero che riesce a giocare a calcio. Cioè, c'è un mondiale, un campionato mondiale di calcio robotico dove questi umanoidi, appunto è utilizzato Nao, giocano a calcio. E il robot umanoide però è l'ultimo di una serie di robot. I robot che vengono utilizzati, noi abbiamo robot che possiamo iniziare a utilizzare ad esempio con bambini di 3 anni, che il più famoso attualmente è Cubetto. Cubetto tra l'altro ha una storia italiana, perché i due ragazzi che l'hanno inventati, che uno di loro è anche qui a Roma, Matteo Loglio e Filippo Jacob, hanno fondato una startup a Londra, una startup su cui noi abbiamo creduto oltre 2 anni fa, ma che nell'ultimo anno ha investito anche la sorella di Mark Zuckerberg, Randy, con la Zuckerberg Media. È un robot che addirittura programmi senza computer, loro dicono programming without screen, e è un robot fatto di legno e plastica basato sulla scheda Arduino. E la programmazione la fai con dei blocchetti di plastica. C'è un blocchetto che fa andare avanti il robot, un blocchetto che fa andare a sinistra, un altro a destra e un altro che addirittura può avere il concetto di ricorsività o di subroutine. Entriamo anche in concetti molto avanzati. E lo programmi completamente senza computer dall'età di 3 anni. Ecco, Lanzarini, io infatti stavo chiedendo da che età, da che ciclo scolastico, quindi dalla scuola materna? Per me, io l'ho sempre detto, dalla scuola materna, e diciamo poi ci sta dando ragione l'impegno che si sta mettendo migliaia di maestre in tutta Italia, fin dalla scuola materna, si possono utilizzare. Adesso io ho citato Cubetto, che forse degli smart toys è il prodotto più popolare qui in Italia, perché è un prodotto che comunque ha una base italiana, ma ma nei paesi dove la robotica educativa si fa da più anni, ed è soprattutto all'Inghilterra il paese guida, ormai sono oltre 15 anni che viene utilizzata nella scuola materna, ma anche nel nostro paese attualmente è diffusissima l'utilizzo. Ad esempio, se lei parla con moltissimi insegnanti, parlano di una pina robotica. La pina robotica ha un nome commerciale che si chiama Bebot, ma è una semplice ape che ha quattro tasti avanti, indietro, destra e sinistra, e la utilizza con i bambini dall'età appunto della scuola materna. La pina robotica, Enrico. Bello. Lanzarini, allora, lei ha detto è diffusissima questo uso, ma in realtà mica tanto nelle scuole. Allora spieghiamo un po', perché è vero che ci sono delle avanguardie e alcune migliaia. Sì, perché penso che molti ascoltatori penseranno, magari hanno dei figli che stanno per andare a scuola, vorrebbero questo per la scuola dei loro figli. E magari alcuni dicono mi sono perso qualcosa. Allora diamo un po' una dimensione del fenomeno. Ma noi parliamo di due tipi di fenomeno, direi. C'è chi lo utilizza nel normale curriculum scolastico, quindi durante le ore di italiano, di matematica, o nella scuola materna durante le normali ore di lezione, e in molte scuole è iniziata un'attività pomeridiana extracurricolare dove viene utilizzata la robotica. Poi stanno nascendo in Italia tutta una serie di società che fanno corsi di coding, di robotica o di IoT al pomeriggio per i ragazzi al di fuori della scuola. Ci sta sviluppando anche un mercato al di fuori della scuola. Nella scuola stanno entreranno credo in modo molto importante nei prossimi mesi, in quanto c'è un progetto del Ministero dell'Istruzione, di cui ne ha parlato anche la vostra trasmissione, gli atelier creativi, dove c'è un finanziamento ad hoc che dovrà essere approvato, che riguarderà qualche migliaio di scuole, dove prevedono l'acquisto, tra l'altro, di prodotti di robotica educativa, di stampanti 3D, di elettronica educativa, e quindi il mercato si sta aprendo per tutta una serie di coincidenze storiche. Allora, quindi Enrico, ci sono i finanziamenti e ci sono i prodotti. Mi è appena arrivato un WhatsApp, in realtà sul mio cellulare, da mia cugina, che mi ha detto: ma come, dopo tanti anni, dopo tanta fatica, abbiamo fornito tutte le classi della scuola media del nostro quartiere di una lavagna magnetica e voi adesso mi dite che sono obsolete? È un punto di partenza. Sì, beh, allora le LIM possono ancora essere utilizzate, anche se in alcune scuole multimediale. Sì, la lavagna magnetica era una cosa di quando eravamo bambini nostri tempi, sì. No, lavagna multimediale. Sì, no, ma non è che l'una esclude l'altra, è diciamo un'evoluzione questa del coding e della robotica educativa che si affianca all'utilizzo. È la nostra generazione, Enrico. Magnetismo. La lavagna elettronica, la LIM, è una lavagna, uno strumento che nasce anche col concetto di lezione frontale. Adesso questo concetto, non dico che sta scomparendo, ci mancherebbe, perché ha una sua importanza, però si sta affiancando un altro tipo di educazione, di lavoro, di gruppo. A Città Lanzarini diceva, se tu metti tanti ragazzi assieme a fare coding, non è che stanno tutti per bene sul banco, magari si spostano, si mettono, si dividono in gruppi. Quindi proprio un nuovo tipo di lezione? Sì, è proprio un nuovo modo anche di svolgere la lezione in aula. No, assolutamente è un nuovo modo. La lavagna non è in contraddizione, è uno strumento diverso che ha fini diversi. Se io faccio una lezione di robotica in classe, vado meglio a mettere i ragazzi seduti attorno a un tavolo circolare, perché banalmente molti di questi prodotti di robotica hanno anche un piccolo campo da gara dove nascono delle piccole sfide, perché poi a fianco alla robotica, l'altra cosa che sta emergendo in Italia come in tutti i paesi del mondo sono le gare di robotica. La prima a partire fu la First Lego League, c'è la RoboCup, c'è la Now Challenge, quindi durante l'anno i ragazzi fanno un percorso didattico per prepararsi a queste competizioni, e dove le squadre italiane spesso hanno vinto anche titoli mondiali. Mi sta venendo voglia di tornare a scuola, Enrico, abbiamo ancora un minuto. Sì, diciamo quanto costano questi strumenti, perché al di là di quello che può prendere la scuola, magari non se lo prende a casa. Ma diciamo, oggi abbiamo strumenti che possono partire da 70-80 euro più IVA, quindi sotto i 100 euro, ad arrivare al NAO, che forse è l'umanoide, il robot che faceva riferimento Enrico, che vanno sui 7.500 euro, ma diciamo su qualche centinaio di euro si riesce ad avere un kit, il famoso kit del Lego, che è forse il più diffuso, il Lego Mindstorm Education, andiamo intorno ai 450 euro. Insomma, quindi è fattibile anche il sogno kit, attenzione, ci possono lavorare più ragazzi, perché Poi su ogni kit nasce un lavoro di gruppo, non ci lavora mai un ragazzo per ogni robot, ma lavorano sempre 3 o 4 ragazzi. Quindi che il costo pro capite diminuisce. Allora, c'è un'ascoltatrice che si chiama Sara che ci manda un messaggio. Adesso noi non abbiamo il tempo di rispondere in questo momento perché abbiamo la viabilità e poi dobbiamo aprire un'altra pagina del Sabato del Villaggio. Però io lancio questo tema a Enrico Pagliarini, che magari continuerà a approfondirlo in 2024, perché Sara ci chiede dei consigli per degli insegnanti che vogliano formarsi. Quindi Enrico, secondo me potrebbe essere o un altro appuntamento del Sabato del Villaggio o in 2024, qualcosa per gli insegnanti. Sì, mi sono occupato di questo a marzo e ogni tanto lo torno a fare, quindi se ci scriviamo e ci sentiamo magari 2024 torno a occuparsi di questo tema, perché è un tema molto molto importante sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista, insomma, per l'educazione dei giovani. Molto bene, grazie Enrico e grazie anche a Pierluigi Lanzarini, grazie, fondatore e CEO di Media Direct. Grazie a entrambi, a presto. A presto, ciao. Ciao Enrico, noi ci troviamo tra poco dopo il traffico. Il Sabato del Villaggio. E adesso è il momento del nostro gastronauta Davide Paolini. Ciao Davide. Ciao, buongiorno a tutti. Davide, piove. Lo so che sembra un'affermazione banale, però la scorsa settimana ci hai un po' spezzato il cuore dicendo che non era stagione per i tartufi. Forse uno spiraglio ce l'abbiamo con questa pioggia? Ce l'abbiamo perché in Piemonte, nelle Langhe, ha piovuto per 2 giorni, poi oggi è tornato il sole. E quindi è una tempistica perfetta per il tartufo. Credo che nelle prossime giornate sicuramente il tartufo fiorirà alla grande, e speriamo però che non vada alle stelle, perché già era partito con un prezzo di mercato abbastanza alto, però ce n'era poco. Ora si spera, speriamo. A proposito, io ho ricevuto una tirata d'orecchie da un signore delle Langhe, perché diceva che io avevo dato in prevalenza ristoranti in provincia di Asti rispetto a quelli in provincia di Cuneo. Bene, allora lo faccio contento. Oggi do un ristorante di Cuneo, così lo magari accontento, facciamo il pareggio. Do Guido da Costigliole a San Maurizio, nel relè di San Maurizio, dove io credo che sia una delle migliori cucine delle Langhe, non solo. Ma Andrea Alciati anni fa si era inventato un meccanismo davvero molto estroso, divertente e opportuno. Cioè, tu portavi il tartufo, lo metteva lui, te lo andavi a comprare al mercato, lui te lo, diciamo, puliva, te lo preparava, te lo metteva sul piatto che tu volevi e ti faceva pagare una X per il servizio. Ecco, credo che questa sia un'idea molto originale e molto creativa che vale la pena di portare alla conoscenza dei nostri radioascoltatori. E poi abbiamo rispettato anche la par condicio, siamo in par condicio per il referendum, siamo in par condicio anche appunto tra Asti e Cuneo. Sì, a questo punto. Certo. Davide, se ti dico baccalà, no, non ti sto insultando, ma se ti dico baccalà... No, mi puoi anche dire stoccafisso. Se tu mi dici baccalà mi fai contento, perché io amo il baccalà, ma non solo. Diciamo che è uno degli argomenti che io appunto volevo portare. Ultimamente c'è la tendenza a 2 prodotti, il baccalà e poi te l'aggiungo l'altro, che sono le acciughe o le alici. Cos'è successo? È successo che per anni il baccalà era rimasto un po' nel dimenticatoio, anzi si trovava nei mercati, magari nei mercati rionali, vedevi queste cose e sembrava un po' un prodotto da poveri, nel senso che il baccalà è sempre stato un prodotto molto apprezzato. Però distinguiamo già baccalà e stoccafisso. Allora, in Veneto si chiama baccalà quello che è stoccafisso. Il baccalà è sotto sale, invece lo stoccafisso viene praticamente preparato all'aria e quindi è molto più secco, quindi c'è questa differenza. Ora parliamo molto di stoccafisso, che appunto che coincide col baccalà dei Veneti. Addirittura in Calabria, che è una delle grandi specialità calabre, lo chiamano stocco. Ci sono dei paesi dove addirittura si fanno 30-40 tipi di stocco, così come in Portogallo se ne fanno 365. Infatti si dice che in Portogallo ci sia un calendario ricettario che corrisponde col calendario annuale, ogni giorno si può fare una ricetta completamente nuova. Ma arriviamo alla tendenza. Ormai la tendenza è nei grandi ristoranti, cioè negli stellati, ovunque. Ormai si trova almeno un piatto di baccalà. Un piatto di baccalà cucinato nelle maniere più diverse. Non so, può essere fatto con mantecato all'olio d'oliva, può essere fatto con mantecato con una nuvola di riso, può essere fatto al vapore con le lenticchie. Insomma, ormai c'è anche in Italia, se vogliamo andare a vedere, c'è un ricettario riservato al baccalà davvero straordinario. Dacci qualche indirizzo, Davide. Beh, l'indirizzo, ad esempio, a Imenadia, che è un noto ristorante milanese, fa un ottimo baccalà, è proprio quello che dicevo prima, mantecato. Oppure al Calandrino, in provincia di Padova, alle porte di Padova, a Sarmeola, fa un baccalà mantecato appunto con un nuvolo di riso. Oppure ancora la Langosteria a Milano fa il baccalà al vapore con lenticchio, con lenticchie. E il Merlo a Camaiore, che è un ristorante, lo fa in diverse maniere. E poi ancora potrei continuare con tantissimi ristoranti, come dicevo, in Calabria è veramente molto, ma molto, molto diffuso. Ormai ogni chef, diciamo, si è inventato un baccalà con una ricetta molto sua, molto personale. E quindi devo dire che ormai c'è una varietà anche in Italia di fantasia su questo prodotto, che in tempo era povero e ora è diventato ricco perché è arrivato nelle tavole, diciamo, più prestigiose. Beh, qui sta l'abilità del cuoco, perché da un prodotto povero farlo diventare magari abbastanza importante ci vuole della grande abilità. Poi in tutta la provincia, diciamo, di Treviso, di Vicenza, Venezia, il baccalà mantecato te lo danno sempre all'inizio del pranzo, così come antipasto sulla polenta. Però io quando vado a Venezia per il festival tutte le sere mangio il baccalà mantecato con la polenta, perché poi non lo mangio più per tutto l'anno, ma al Lido di Venezia tutte le sere. Abbiamo ancora un minuto, Davide, vuoi un altro indirizzo oppure dici tu? No, ti dico un'estrosità sul baccalà. Prova a prendere del baccalà, e magari cotto, e poi metterci un po' di caffè, sicuramente viene un caffè liquido, sicuramente viene fuori un tiramisù. Io so che tu hai sempre queste idee folli che io applico sempre, mi fido ciecamente e di solito. Però allora 349-238-6666 suggeriscono anche baccalà impanato e alla griglia, croccante, servito con fonduta di gorgonzola. Io proverei anche questo. Beh, allora ti do i filetti, tu che vai, io so che tu vai a Roma. Sì. Ebbene, sì. Allora io ti dico, vai a mangiare i filetti di baccalà fritti da Erfilettaro de Santa Barbara. Ah, ma lo segno subito. È un posto che non è mai diventato di moda, ma non è mai caduto, è sempre stato sulla cresta dell'onda. Vuol dire che il baccalà è eterno. Io sono d'accordo, sai cosa dico sempre? Che è meglio non andare mai di moda, perché poi si passa di moda. Se invece non sei mai di moda, non diventi un classico. È un classico, hai ragione. Erfilettaro de Santa Barbara a Roma è un classico. Straordinario. Davide, siccome non abbiamo avuto tempo di parlare di acciughe, noi lasciamo sempre qualcosa in sospeso. La prossima settimana parliamo di acciughe, va bene? Diciamo che avanziamo sempre qualcosa dal piatto. Sì, è un'ottima abitudine. Bisogna sempre alzarsi con un po' di appetito e desiderio di mangiare ancora qualcosa. Grazie Davide, al prossimo sabato. Un abbraccio. Ciao. Noi ci ritroviamo dopo il giornale radio delle 16, ancora con il sabato del villaggio. Abbiamo ancora un sacco di pagine da aprire il nostro sabato pomeriggio. Good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6:30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7:20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto, dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Il segnale orario vi è offerto da... L'impressionismo di Zan Domenechi. In mostra a Padova, Palazzo Zabarella, fino al 29 gennaio. Il sabato del villaggio. Ed eccoci con la seconda ora del Sabato del Villaggio, il sabato pomeriggio di Radio 24. Io sono sempre sbadata e smemorina e quindi non vi ho dato i numeri per gli sms, per i whatsapp, ma tanto mi scrivete lo stesso, vuol dire che vi ricordate meglio di me. 349-238-6666 per sms e per whatsapp, e poi c'è il mio account di Twitter, @MartaCagnola. I temi della seconda ora, sempre grandi, passatempi d'autunno, i libri da leggere al calduccio sul divano, beh, se non fa freddo fuori da voi, comunque i grandi libri di Alessandra Tedesco. Poi lo spazio dei consumi, delle nuove tendenze con Maria Luisa Pezzali. Questa settimana facciamo la maglia insieme. I consigli per il fine settimana al cinema, ma partiamo proprio con il cinema, con un film che a me è piaciuto moltissimo e quindi ci tengo davvero a parlarvene. Andiamo dunque alla Festa del Cinema di Roma. Tutto era incominciato nel gennaio 1943, una storia che riguardava l'America e la Sicilia. Saremo gli americani, andiamo, andiamo! Che bisogno c'è di mettere mano alle armi quando siete in mezzo alla miscia? Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano, è fatta. Dove abita? In Sicilia. In Sicilia in questo momento c'è soltanto la seconda guerra mondiale in corso. Cari amici, è una giornata speciale, perché grazie agli amici americani a Crisafullo è arrivata la democrazia. In guerra per amore è il nuovo film, lo avrete sicuramente riconosciuto, di Piff. Avete anche capito che è una storia d'amore, lui, lei, 1943, lui vuole sposare lei, sono italo-americani, per sposarla deve avere il consenso del padre di lei che è in Sicilia, e quindi come fare per andare in Sicilia? Basta arruolarsi. Sembra una storia d'amore tenera, svagata, divertente, così come è Piff, ma sempre così come è Piff, poi ci racconta tutt'altra storia, e quindi io con molta gioia, visto che l'ho già detto, questo film mi è piaciuto moltissimo. Io non riesco a nascondere quando una cosa mi è piaciuta tanto. Auguro un buon pomeriggio, un benvenuto al Sabato del Villaggio a Piff. Ciao Piff. Meno male che ti è piaciuto, che se tanto. Non ti fosse piaciuto, no, se non ti fosse piaciuto non ti avrei chiamato. Ah, ok, ecco, questo già l'avevo pensato. Allora, lo dico subito agli ascoltatori, esce il 27, vero, in sala? Sì. Quindi non andatelo a cercare stasera, ma tra qualche giorno, però è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, sì, come preapertura, quindi è giusto parlarne subito. A me piace perché ti definiscono sempre Forrest Gump, Jacques Tati, un po' Tenero Giacomo, sempre questo sguardo un po' infantile, un po' dolce, un po' tenero alla realtà. Però è così che ci freghi poi, per Francesco? Cioè, poi non so quanto essere felice nell'essere paragonato a Forrest Gump, perché... No, anche perché appunto quello era un po' stupido. No, nel senso, era un po', ecco. No, ma io in realtà mi rivedo molto in Forrest Gump, però diciamo che sì, sono anche cresciuto con quel mondo là, nel senso la mia generazione, forse la più americana di tutti, no, non lo so, forse no, però essendo del 72 mi sono fatto tutte le serie televisive americane, sono cresciuto con, commedia all'italiana, perché ce l'hai nel sangue in quanto italiano, però poi sono cresciuto, cioè Forrest Gump è sicuramente un film che mi ha colpito molto. Però diciamo che mi sembra non è proprio ogni tanto, però questo no, sguardo ti viene elemento, attribuito, sì, ecco. Sì, però, sì. Però con questo sguardo dolce, quest'aria svagata, poi ci racconti delle cose amarissime, e lo hai fatto anche questa volta. Io ti confesso che non conoscevo questo rapporto di un militare americano che, sì, appunto alla fine della Seconda Guerra Mondiale disse attenzione, scrisse proprio a Franklin Delano Roosevelt attenzione, sì, lui, perché esiste il problema mafia, e non solo fa la storia di come è nata la mafia, molto lucida, giusta, azzeccata, ma poi suggerisce delle soluzioni, come risolvere il problema, e al terzo punto, quando dice ci possiamo mettere d'accordo, non ci ritiriamo, dividiamoci il territorio sostanzialmente, perché le altre due era tenerla sotto controllo, certo. La seconda possibilità era scendere a patti oppure dividere il proprio terreno, cioè noi stiamo qua e voi state là, però diceva attenzione perché l'ultima possibilità scegliamo questa possibilità, ci potrebbero essere conseguenze negli anni, e quindi ci ha dato anche un avvertimento. In realtà poi la storia appunto è andata in un'altra maniera, certo, perché poi la mafia è stato chiesto l'aiuto alla mafia per il controllo del territorio per andare a sconfiggere il nazismo e il fascismo. Una volta sconfitto il nazismo e il fascismo, nel mondo occidentale è nato il pericolo comunista. E quindi la mafia, come dire, l'aiuto della mafia è durato fino a quando è caduto il muro di Berlino. Questa è la triste realtà. Quindi è una tesi veramente sconvolgente, veramente drammatica, che tu ci racconti in una storia... Sempre scherzando. Sì, nella quale noi sorridiamo e poi usciamo dal cinema contenti per aver sorriso e poi ci fermiamo un attimo e diciamo, no, un momento, ma mi ha detto una roba tremenda anche stavolta. Ma sai cos'è? Che in realtà poi io parlo di cose che sono già successe, quindi c'è poco da fare, non c'è poco da correggere, e quello che dico è almeno raccontiamocelo, almeno diciamoci come sono andate le cose, poi appunto è irrimediabile, abbiamo usufruito anche noi della, cioè, lo dico sempre, io sono felicissimo che a liberarci siano stati gli americani e non l'Unione Sovietica, perché saremmo passati da un regime all'altro, certo. Così e sarebbe stato... preferisco una democrazia scricchiolante, non perfetta, che un regime perfetto, ovviamente, e non posso dimenticare tutti quei soldati morti alle armi. Se tu vedi, vai ai cimiteri dell'esercito inglese, per esempio a Catania, vedi ventenni di gente che magari non sapeva neanche dove fosse la Sicilia, quindi su quello non possiamo, cioè, non lo possiamo dimenticare, però è anche vero che è successo questo. E cioè, la realtà è questa, che la mafia ha vissuto, ha fatto quello che ha fatto perché c'era aveva un ruolo di sentinella che serviva a, dico all'America, ma in realtà all'Occidente, perché erano tutti d'accordo. C'è una cosa che mi è piaciuta molto del film e sono le donne, al di là delle attrici, Stella Egitto e Miriam Leone, fantastica, però tu hai uno sguardo molto bello su queste donne che combattono per come possono in quegli anni, per le armi che hanno, però combattono. Sì, a me piace in genere la gente che combatte, questo sono istintivamente attratto dalle persone che combattono, ho il pregiudizio, ho una forma di razzismo... Effettivamente è vero, lì questo, ci faccio caso ora, che effettivamente tutte e due combattono con quello che potevano, nel senso, è vero, poi sì. L'unica cosa che mi dispiace è che siccome no, l'incubo che l'idea che non voglio creare l'imbarazzo a chi guarda il mio film, cioè mi piacerebbe scrivere, siccome non scrivo io i film, mi piacerebbe scrivere un film dove faccio sesso con la protagonista. Beh, ma il prossimo io me lo però auguro. Però non ci riesco, perché è più forte di me. Cioè, no, invece guarda, io il prossimo me lo aspetto anche un po' hot, ma nel quale riesci comunque a lasciarci il messaggio. E guarda, questa è una sfida. L'idea che il padre porta suo figlio a vedere un mio film e si imbarazza, o il figlio si imbarazza, non riuscirà a dormire la notte. Poi magari... non è che vada bene, da spettatore va bene, ma che un mio film possa imbarazzare qualcuno della famiglia, non ci riesco. E quindi purtroppo non ci saranno mai, almeno al momento non ci sono mai scene di sesso. Cosa no, che vorrei... qui solo amore, qui solo sì, sentimento romantico molto delicato. Sempre sesso cinematograficamente parlando, insomma, non si vedono seni, non si vede, è proprio per famiglie. Ma infatti, film. Guarda, sai che prima di entrare in onda mi sono incrociata in redazione con Maria Piera Ceci, che ogni tanto mi chiede consigli cinematografici, e le ho detto, questo vai con i tuoi ragazzi, con i tuoi figli a vederlo, perché secondo me... appunto è il modo giusto anche per imparare una cosa che nei libri non abbiamo mai trovato scritta. Sì, ecco. Sì, questo è vero, è un avvenimento storico importantissimo per il nostro paese, ma non so perché non abbiamo mai approfondito, anche perché un po' probabilmente perché l'idea che noi ci sentiamo americani e noi in realtà lì eravamo fascisti, questa cosa non... la Germania ha perso la guerra e lo sappiamo tutti, lo sanno pure i tedeschi che si fanno ancora l'esame di coscienza sul nazismo, ma gli italiani sull'esame di coscienza sul fascismo non l'hanno mai fatto. Vero, vero, noi vero. Siamo passati da fascisti a viva i liberatori, vittime, sì. Quindi liberati da noi stessi. Pierfrancesco, io sono veramente contenta di aver potuto parlare di questo film. Io mando tutti al cinema il 27 ottobre, perché non mi chiederete indietro i soldi del biglietto, ve lo garantisco personalmente. Esatto. In guerra per amore, come c'è scritto sul press book, Pierfrancesco Di Liberto, tra virgolette, PIF. Perché tutte e due, sì. Grazie per essere stato con noi, buona serata, in grazie. Bocca al lupo, perché è davvero un film che vale la pena vedere, grazie per Francesco, grazie a PIF, ciao, noi ci troviamo tra pochissimo dopo il traffico perché abbiamo un'altra pagina da aprire nel Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. Allora, vi anticipo che in RadioTube dalle 17 alle 18, ve l'ho già detto, ci sarà un ospite musicale molto molto molto forte, vi dico solo che è già primo in tutte le classifiche col suo disco che è uscito ieri, quindi ovviamente noi solo i numeri uno. Presto invece avremo ospite in una delle prossime puntate un gruppo che a me, ma anche a Christian Goldoni in redazione, piace moltissimo, che sono i Due Giornalisti. Qualche tempo fa cantavano del Tuo Maglione Mio, il pezzo era questo, poi capirete perché abbiamo scelto i Due Giornalisti. Ho in mente questa cosa, scrivere una canzone che parla di me e di te, di tutto, della droga, delle note di un pianoforte sopra il fischio di un vigile. Ho nel cuore questa cosa, distese infinite d'acqua, il sole, il caldo, il mare, è una partita di carte giocata sotto l'ombrellone d'estate. La tua camicia blu, che poi in realtà è la mia. Beh, che belli questi sabati pomeriggio nei quali possiamo dedicarci agli hobby autunnali. Già ci stiamo un po' cullando nei passatempi dell'autunno e ce n'è uno molto molto particolare del quale parliamo nel nostro spazio dedicato ai consumi. Lo facciamo ovviamente come di consueto con la nostra Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Allora, qual è il passatempo per eccellenza da divano? Insomma, sì, a parte i libri, la TV, ma qualcosa, un hobby? Beh, da me è invidiatissimo perché non lo so fare, ogni volta dico adesso imparo, il lavoro a maglia, lo sferruzzare. Sì, io non ho mai imparato per bene perché ho sempre preferito il ricamo, io sono una fan del punto croce, però siamo parenti, è sempre una bella attività autunnale verso l'inverno. Beh, insomma, il knitting, così insomma si definisce la tendenza quando usiamo queste espressioni inglesi, insomma, che ci danno molto tono. Sì. Il knitting è un trend consolidatissimo, sono anni che si parla insomma di questa tendenza super trasversale per età, genere, quindi giovani e meno giovani, donne, uomini, celebrities e gente comune. È stata riscoperta appunto da un po' quest'arte antica, diciamo così, spinta molto dal trend del fai da te, quindi del do it yourself, e quindi grande presenza anche sui social network. Ne parliamo perché a fare notizia in questi giorni in Italia è lo sbarco di We Are Knitters, che è questa grande community, appunto un po' community, un po' sito di e-commerce, tutta dedicata al mondo del lavoro a maglia. È veramente un fenomeno incredibile, in molti paesi vanta oltre 25.000 kit venduti in 20 paesi nel mondo, ed è nata proprio da una storia di vita personale che sentiremo tra pochissimo, perché il kit è proprio questo kit completo che ti arriva a casa, è proprio il punto di forza di questa realtà che ci siamo fatte raccontare da Lidia Pregnolato, la responsabile comunicazione per l'Italia. Sentiamo Marta che cosa ci ha detto. We Are Knitters è un progetto nato a Madrid nel 2011, sbarcato da poco anche in Italia, dopo aver avuto insomma una diffusione anche importante in altri paesi come la Germania, la Francia e anche gli Stati Uniti dal 2014 in particolare. Si tratta di un'idea nata da due creatori che sono Maria José Marín e Alberto Bravo, che durante un loro viaggio a New York sono rimasti piuttosto colpiti dal fatto che alcune persone, per intrattenersi, per magari riuscire a passare i tempi morti, magari di attesa della metropolitana o dei bus, tiravano fuori il loro lavoro a maglia, i loro ferri, e si mettevano insomma a sferruzzare, ecco. Quindi, colpiti un po' da questa cosa, hanno pensato, diciamo, di invitare le nuove generazioni ad appropriarsi con modalità anche moderne, diverse, di una tradizione che, diciamo, si è mantenuta viva per molti secoli, anche se è sempre stata un po' associata alle nonne, no? Oggi in realtà il lavoro a maglia è diventato invece un trend attuale che coinvolge migliaia di persone anche sui social network, quindi ha invaso anche un po' la virtualità, ecco. Chi sono i vostri knitters? C'è un profilo tipo? No, non c'è in realtà un profilo tipo, nel senso che si tratta di ragazze, giovani donne, donne più adulte e anche di uomini. In effetti, diciamo che facendo una breve ricerca ci si rende conto che anche gli uomini, non tutti ovviamente, però hanno questo passatempo, anche diciamo delle celebrity piuttosto illustre come Russell Crowe, che ama appunto sferruzzare tra una ripresa e l'altra per ingannare il tempo, ma anche perché, diciamo, che lavorare a maglia ha un aspetto anche, se vogliamo, terapeutico, nel senso che da diversi studi è emerso che il lavoro a maglia è utile per sfogare lo stress, per rilassarsi, per allontanare, diciamo, i pensieri negativi, per concentrarsi su qualcosa di manuale e quindi non sempre attaccati a uno schermo piuttosto che al cellulare, e aumentare, se vogliamo, anche la propria autostima, perché comunque c'è della soddisfazione personale poi nel vedere un capo realizzato con le proprie mani e sfoggiato magari con gli amici, ecco. I kit di We Are Knitters sono veramente completi, nel senso che sono disponibili innanzitutto per tutti i livelli, quindi dai principianti al livello facile, all'intermedio, all'avanzato, e in ogni kit c'è ovviamente un pattern molto dettagliato che spiega punto per punto come realizzare poi il prodotto finito. A scanso comunque di qualsiasi difficoltà ci sono anche moltissimi video tutorial, oltre che i post del blog, e oltre al fatto che gli utenti possono rivolgersi direttamente a We Are Knitters. Un altro valore aggiunto che probabilmente ha decretato un po' il successo di questo brand è il fatto che i kit, che indicativamente vanno dai 50 ai 200 euro, comprendono veramente tutto ciò che serve, dai gomitoli ai ferri di legno di faggio realizzati a mano, al pattern, l'ago da lana, l'etichetta We Are Knitters poi da abbinare, da applicare sul prodotto finito. E quindi da Lidia Pregnolato abbiamo scoperto come anche le stars, anche uomini, si dedicano alla maglia. Vorrei dire a tutti coloro che ci stanno ascoltando che We Are Knitters si scrive con la K, We Are Knitters, perché magari lo state cercando e così pronunciato non si capisce. We Are Knitters, interessantissimo, mi piace molto, Luisa. Beh, insomma, il gladiatore che tra una ripresa e l'altra con i ferri e la tenuta da gladiatore sarebbe stato bello vederlo. Sì, poi ometti, se lo fa lui potete farlo anche voi. Esatto. Adesso però è il momento delle chicche che ci tira fuori sempre la nostra Cristina Lazzati, dovremmo averla in linea. Buongiorno Cristina. Buongiorno a tutti, eccoci qui. Ciao Cristina, allora, cosa ci hai scovato oggi? Io non lavoro a maglia, posso fare shopping, quindi parliamo di shopping. Beh, anche questo è un ottimo passatempo autunnale. Autunnale si può fare anche indoors quando si fa online, ma allora La ricerca di Altavia, che è una società di marketing, ci ha raccontato un po' cosa gli italiani vorrebbero dalle loro insegne preferite, quindi è andata a chiedere quali sono le caratteristiche che cercano in insegna, e ne sono uscite una decina, tra cui ovviamente denaro, tempo, risparmio di tempo, informazioni, trovare tutto quello che cerca, quindi assortimento, ma anche sicurezza, benessere, anche una capacità di guida e di accompagnamento nella ricerca dello shopping, e poi fatti sentirsi rispettati, considerati, e infine anche la possibilità di condividere con altri. Insomma, tutte queste belle cose poi gli hanno chiesto: ma a voi, nella vostra insegna dove andate di solito a fare la spesa, che cosa vi attrae? E salta fuori una cosa molto, molto semplice, cioè denaro, tempo e assortimento. E uno dice: vabbè, ma allora se vi basta questo, in fondo va bene. No, in realtà non ci basta questo noi italiani, questo lo diciamo anche alle insegne presenti in Italia. Vorremmo avere anche tutto il resto, però sembrerebbe che di fatto oggi come oggi moltissime insegne se la giochino soprattutto su queste tre cose. Ma in realtà, quando vai a vedere le classifiche che ha fatto Altavia su queste cose, ad esempio l'abbigliamento, chi sono le prime tre catene che fanno più contenti i loro clienti? Non sono catene fisiche. Al primo posto c'è Amazon, al secondo Zalando, al terzo c'è Yux. Ecco, perché con l'autunno appunto compatibile col divano, esatto, Marta, ci si chiude in casa, e queste ai noi sono veramente compatibilissime. Perché se vi faccio presente che una cosa, allora vogliamo più informazioni, clicchiamo e ci danno tutte le informazioni che vogliamo. Vogliamo condividere, sapere cosa ne pensano gli altri, e track Amazon ti fornisce anche i pareri degli utenti. Vogliamo velocità e c'è la velocità, ci sono i motori di ricerca e sembra più semplice. Ma allora il negozio fisico non ha più scampo? No, diciamolo anche perché in tanti ci stanno ascoltando o andando verso un negozio fisico, magari da qualche negozio fisico, quindi diciamo qualcosa anche a loro. Diciamo qualcosa anche a loro. Vi facciamo un altro esempio invece: Rinascente, Milano, Duomo, stradince, eppure non ha nemmeno l'e-commerce. Perché? Perché di fatto riesce a collegarsi con noi attraverso anche tutti i vari, gli esperti li chiamano i touch point, quindi attraverso il cellulare, attraverso le email, attraverso programmi fedeltà molto avanti. Però nel momento in cui tu entri in un negozio come Rinascente ti senti accolta a casa, con una guida, con le spiegazioni che ti servono e quant'altro. Quindi alla fine qual è il segreto delle insegne che funzionano? Noi ce ne sono di insegne che funzionano con dei signori negozi, e non sono solo quelli come Rinascente dove c'è molto lusso, ma piace molto Esselunga, che ha un livello di fedeltà altissimo, ma anche Natura Sì, che comunica un messaggio anche molto forte, dove il prezzo diventa quasi, come dire, un di cui. Certo c'è un prezzo, magari leggermente più alto o un po' più alto rispetto a merceologie simili, però chi va in un Natura Sì sa già cosa sta cercando. Sta cercando una serie di sicurezze legate al cibo, sta cercando il cibo bio, il cibo che comunque è stato coltivato nel rispetto della natura e anche di chi l'ha preparato prima. E allora in tutto questo quindi come funziona? Funziona che le insegne oggi devono imparare a riconoscere di più il fatto che noi clienti abbiamo dei bisogni, abbiamo sempre un telefonino in mano, e che forse possono comunicare con noi in questo, ma accogliendoci in ambienti dove, anche quando il prezzo è un po' più basso e noi siamo solo felici di questo, non ci sentiamo poveri, ma ci sentiamo comunque di fare la scelta giusta e magari di essere anche fortunati per portare via qualcosa che è o in promozione o in saldo, e quindi farci fare anche qualche affare. Guarda, da cliente appoggio tutte queste tue teorie, quindi questa ricerca ci azzecca. Grazie a Cristina Lazzati, ci sentiamo sabato prossimo. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Grazie a Cristina. Invece un altro appuntamento è quello con Essere Avere con Maria Luisa Pezzali domani dopo il GR delle 22 come sempre. E ciao, al prossimo Marta. Sabato, ciao. Il sabato del villaggio. I vostri messaggi al 349-238-6666, sms e whatsapp, ma io leggerei il whatsapp di questo ascoltatore che dice: ecco a posto lo speciale sferruzziamo, che roba è, radio sfiga, certo, il gladiatore fa la maglia, Rambo preferisce l'uncinetto, Terminator si rilassa solo con il tombolo, ma non diciamo vaccate. Allora, se le vaccate le diciamo noi, le dice anche la stampa inglese e non i tabloid, ma giornali molto seri, perché è una notizia che è uscita su giornali molto molto seri, perché fa parte di una terapia che lui ha seguito per l'anger management, per la gestione della rabbia. Quindi vaccate noi non le diciamo, e vediamo se tu sei muscoloso come Russell Crowe. Ti sfido, mandami una foto, voglio proprio vedere se noi diciamo vaccate e se tu sei muscoloso come Russell Crowe. Questo non lo so. Comunque devo fare anch'io della maglia per gestire la mia rabbia, probabilmente. Voltiamo pagina e parliamo di libri. the undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Beh, non potevamo che iniziare questo appuntamento con i libri e con la letteratura parlando del Nobel per la letteratura, e quindi un bel Bob Dylan per Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Allora, parliamo di Nobel per la cultura a questo punto, non per la letteratura. Ah, tu sei una di quelle contrarie a Bob Dylan. No, non sono contrarie a Bob Dylan, Marta, ne abbiamo parlato anche nei giornali radio in questi giorni. Sicuramente lui è un poeta, una forma di poesia. Però oggettivamente fammi difendere un po' gli scrittori puri, insomma ci sono tanti anni e tanti altri scrittori che avrebbero potuto meritare. Allora, se fosse un Nobel per la cultura va benissimo, perché comunque fa poesia, poesia in versi, poesia tramandata a voce invece che scritta, mi va benissimo. Però Philip Roth, perché non lo chiamate mai? Ah, perché tu, ok, io sono, faccio parte di quel partito che quel giorno esulterà, ma mi sa che quel giorno non verrà mai, perché ormai si dice da 20 anni che Philip Roth potrebbe vincere l'Oscar, invece il Nobel magari vince l'Oscar. Dunque, se un musicista ha vinto il Nobel per la letteratura, Philip Roth vincerà l'Oscar per il miglior attore non protagonista. Allora facciamo così, per convincerti che Bob Dylan è un grande esponente della poesia, ti consiglio io un libro. Ti consiglio un testo. Ti posso dire qual è il dramma di questo Nobel? È che i librai non venderanno nulla in più. Cioè, perché... quello è vero. In compenso Bob Dylan ha totalizzato un più 500% di ascolti su Spotify in un giorno. Bene, di questo sono quindi felice. Perlomeno. Allora consiglio io un testo. Sì, La voce di Bob Dylan di Alessandro Carrera, un libro Feltrinelli. Alessandro Carrera, studioso e docente italiano, ma all'Università di Houston, che racconta proprio la poetica di Bob Dylan dal punto di vista letterario. Quindi... Sì, lui è il massimo esperto in questo campo, me l'hai insegnato tu, devo dire la verità. E quindi grazie a lui ho potuto capire di più effettivamente della poetica di Bob Dylan. Quindi se vogliamo conoscere meglio Bob Dylan, ci compriamo Carrera. E invece se vuoi sentire qualcosa per ascoltarlo, per conoscerlo, io avevo scelto questa I Want You, ma non è perché era un mio consiglio, ma perché il segretario o la segretaria dell'Accademia svedese Danius ha detto: cominciate dall'album Blonde on Blonde, perché si capisce di più. Vabbè, vedi, noi è tutto accettiamo. Magna, eravate già d'accordo voi, musicisti. Cantanti, basta, ci allora, si scriveva ormai. Allora, visto che questa settimana per il Nobel non andiamo in libreria, no. A parte appunto qualche saggio che ci possa aiutare a capire Bob Dylan dal punto di vista poetico, andiamo invece in libreria a comprarci qualche romanzo. Allora sì, ti dico i libri di cui si sta parlando di più in questo momento. Sicuramente uno di questi è Il libro dei Baltimore di Joel Dicker. Ti dice qualcosa? Mi dice qualcosa. Allora, lo confessiamo, l'ho intervistato io, ma per un puro caso, è toccato a me intervistare. Facciamo una specie di job sharing, la Tedesco legge e la Cagnola ogni tanto intervista e viceversa. Esatto, confessato che però il libro non l'avevo ancora letto, perché è stato proprio un caso per cui dovessi intervistarlo io. Però che gran bel ragazzo, Alessandra. No, un gran bel ragazzo, devo dire anche a me. Quando hai degli scrittori così, passali a me l'intervista. E anche un gran bel romanziere, perché questo libro è stato pubblicato dalla Nave di Teseo, ma ricordiamo che lui è quello del best seller famosissimo La verità del caso Harry Quebert. Tant'è vero che questo, Il libro dei Baltimore, può essere in parte considerato un sequel, ma non proprio, nel senso che rimane lo stesso protagonista e si vedono vicende, diciamo, che hanno a che fare sempre con questo Marcus Goldman, che è uno scrittore che appunto nel primo libro aveva indagato appunto per scagionare l'amico Harry Quebert dall'accusa di omicidio. In questo romanzo invece si parla della famiglia Goldman. Allora, ci sono i Goldman di Baltimore, inizia a fare le crocette perché devi fare uno schema, okay, che sono benestanti, e poi ci sono i Goldman di Montclair, che sono invece modesti e di cui fa parte appunto Marcus. Cosa fa Marcus? Ripercorre il passato di queste due famiglie, soprattutto dei Goldman di Baltimore, cioè quelli ricchi. Quelli ricchi. Perché in questa famiglia c'è stata una tragedia che nel romanzo viene sempre chiamata con la T maiuscola, la tragedia. Non vi dico qual è perché si scopre alla fine del libro. Quindi non è esattamente un giallo come poteva essere quello, La verità sul caso Enrique Berk, però c'è comunque un mistero, un qualcosa da scoprire, quindi lo stile è sempre quello che ti spinge a girare pagina dopo pagina per vedere che cosa succede. Tra l'altro Joel Dicker aveva iniziato a scrivere questo, il libro di Baltimore, proprio subito dopo aver pubblicato Enrique Berk, poi ha interrotto tutto perché insomma travolto dal perché successo planetario è stato, era impegnato a fare le varie presentazioni. A chi lo consigliamo? Io dico sempre uomini e donne, basta questa distinzione, libri da uomini, sì, libri da donne, basta. Uomini e donne, a cui sicuramente è piaciuto magari il primo, La verità sul caso Enrique Berk, che però hanno voglia di un giallo, mica tanto giallo, ci sono misteri di famiglia. Ah, bello, bello, sono sempre appassionanti. Ancora consigli? Allora, t'ho preso così un libro che secondo me può riguardare già i ragazzi dai 14 anni in su, anche se in teoria è un libro per grandi, ma ti assicuro che può essere letto già da quell'età. È l'ultimo libro di Stefano Benni, si intitola La bottiglia magica, pubblicato da Lizard. È un libro illustrato, non è prettamente un romanzo. È una sorta di favola, quindi può avere diversi livelli di lettura. Naturalmente ci sono i temi carissimi a Benni, cioè la critica al consumismo sfrenato, all'uso eccessivo della tecnologia, ma soprattutto diciamo quella parte di società che castra la fantasia e la curiosità dei più piccoli. I protagonisti sono Pin e Alina. Pin è un ragazzetto che vuole andare di là dal mar, quindi ti ricorda un po' i migranti, no? Sì. Dice voglio andare di là dal mar per fare fortuna, per diventare ricco, eccetera. Alina invece, un personaggio meraviglioso, ricorda Alice del Paese delle Meraviglie, viene messa dai genitori in un collegio che si chiama, il nome è una garanzia, Villa Apatia, dove appunto la fantasia e la voglia di libertà vengono schiacciate. Lei riesce a fuggire, insomma i due mondi si incontreranno attraverso questa bottiglia, non posso dirvi di più. Però già mi fa capire che si può leggere adulti e ragazzi magari anche insieme, ce lo si passa. Assolutamente, chiaramente gli adulti capiscono anche dei riferimenti letterari, c'è Moby Dick, Zanna Bianca, appunto Alice nel Paese delle Meraviglie, e c'è anche un riferimento secondo me che colgono anche i bambini, perché c'è il cuoco di questo collegio che è una sorta di parodia di MasterChef, perché è un cuoco che si dedica alla cucina crudelista, non ho fatto un errore, crudelista, nel senso che deve cucinare le sue pietanze con crudeltà nei confronti degli animali, ma anche delle verdure, sai che anche la zucca piange, certo, no? C'è quel famoso sketch in televisione, con particolare crudeltà nei confronti degli ingredienti. Ah, vabbè, fantastico. Abbiamo tempo per un ultimo consiglio. Vabbè, a proposito di chef, il nostro Davide Paolini, il nostro gastronauta, ora in libreria con Il crepuscolo degli chef, pubblicato da Longanesi, gli italiani e il cibo fra bolla mediatica e crisi dei consumi. Si analizza appunto come questa moda sfrenata dei cuochi in televisione alla fine non ha aiutato i ristoranti, perché i ristoranti purtroppo continuano a chiudere, non ha aiutato eccessivamente le capacità culinarie delle persone, e si sofferma a un capitolo che secondo me piacerebbe molto a Cruciani, cioè dalla gastronomia alla gastrofobia, cioè adesso tutti gli ingredienti, tutte quelle cose che sono senza sale, senza glutine, senza i vegani, i vegetariani, eccetera, eccetera. Insomma, Paolini ne fa la sua analisi da esperto del settore. In questo caso lo regalerò per Natale a Cruciani. infatti, mi sembra un ottimo regalo, cominciamo a pensarci. Alessandra, l'ultimo consiglio è quello del cacciatore di libri. Stasera alle 22 con Stefano Benni, Sava Sandir, puntata a lui dedicata interamente. Grazie Alessandra, al prossimo sabato. Ciao. Il sabato del villaggio. Dicono che Neruda sia il comunista più importante del mondo. Mi perseguitano nell'ultimo posto al mondo in cui vorrei che lo facessero. Qui in Cile. Lo prenda e lo umili. Dovremo diventare clandestini. Mi dispiace, non posso farle lasciare il paese. Ti amo, poeta. Ti amo. Non immagini quanto. Dove sarà? Non lo sappiamo. Diventerò il suo peggior incubo. Vuoi forse che ti trovino? Mi piacerebbe sentirli più vicini. E questo era un frammento di un film uscito questo fine settimana di un regista che in questo periodo è molto prolifico e anche molto amato, è stato a Venezia, insomma, Neruda. Ma è solo un film per gli amanti della poesia o di cosa si tratta? Lo chiediamo subito al nostro super esperto Franco D'Assisti. Ciao Franco. Ciao Marta, ciao, saluto a tutti gli ascoltatori. È davvero il film della settimana questo Neruda, perché dobbiamo renderci conto di essere di fronte a un regista che sta segnando insieme a pochi altri la nostra epoca a livello cinematografico, cioè Pablo Larraín, il cileno Pablo Larraín, che tra l'altro è passato recentemente, ricorderete, anche agli onori della cronaca con il suo nuovo film Jackie, che ancora deve uscire in Italia. Qui stiamo vedendo quello precedente, ma ne ha fatti tipo 3 in 2 anni. Qui siamo nel 1948, appena finita la guerra, in Cile. Il senatore Pablo Neruda, il grande poeta Pablo Neruda, è nel Partito Comunista, è molto critico nei confronti della presidenza Videla. A quel punto il presidente sgancia un prefetto che è Gael García Bernal alle calcagna del poeta, e nasce un inseguimento che dura per tutto il film. Alcune scene sono veramente indimenticabili e Neruda è un film che davvero mi sento di consigliare. Altro titolo uscito questo fine settimana, Lettere da Berlino. In un certo senso siamo sempre in un tema letterario, Franco. Guarda, anche Lettere da Berlino racconta una storia vera, e guarda caso anche qui siamo negli anni 40, ma stavolta prima della guerra, o comunque agli albori della guerra, a Berlino appunto. E anche questa è una storia pazzesca, perché una coppia della classe operaia, due brave persone, hanno mandato, come del resto era dovuto, il figlio al fronte. Un giorno ricevono la notizia che il figlio non ce l'ha fatta e che è morto sul fronte, e lì nasce il loro odio sviscerato per il regime nazista, tanto che cominciano in una Berlino blindata da nazisti, SS, polizia segreta, eccetera, cominciano a scrivere delle cartoline sul retro delle quali a mano scrivono motti che dovrebbero svegliare le coscienze della gente che li legge. Poi vanno nei posti di massimo passaggio della città, furtivamente le lasciano lì, e queste cartoline cominceranno a essere virali, una viralità ante litteram, tanto che il poliziotto che se ne sta occupando si rende conto di essere di fronte a qualcosa di grandissimo. Ce ne sono più di 200 ormai a un certo punto, e non si riesce a capire chi le sta lasciando. È un film veramente molto originale, ed è incredibile come ancora il cinema riesca a regalarci scorci inediti di quella guerra che ha così segnato la nostra storia. Ultima domanda, come di consueto, un'uscita italiana. Di cosa parliamo questa settimana? Ma guarda, voglio segnalarti, Marta, un film molto particolare, filmato da Cristiano Bortone, che tra l'altro sarà protagonista alla Rosa Purpurea con un'intervista che ci ha rilasciato, che si intitola Caffè. E il caffè è veramente protagonista di queste tre storie, una in Belgio, una in Italia e una in Cina, che si snodano e si intrecciano anche attorno a questo aroma, a questa bevanda, a questo prodotto. Quindi il caffè è preso come metafora proprio per le sue tre capacità, i suoi tre profumi, i suoi tre aromi: uno amaro, poi aspro e poi dolce alla fine. Ecco, questa è un po' la vita e questo è un po' il caffè che racconta Cristiano Bortone alla Rosa Purpurea. Tra l'altro voglio ricordare, dove parleremo ovviamente del campione d'incassi Inferno di Ron Howard, uscito in questi giorni. E dunque, per un caffè e per parlare dei film di questa settimana, ci troveremo più tardi, dopo il giornale radio delle 18, con la Rosa Purpurea. Ciao Franco. Ciao Marta, ci sentiamo. Stringimi forte e così dentro le mani tue, e ascolta ad occhi chiusi, questa è la mia canzone. Stringimi forte i polsi, Mina, una canzone di tanti anni fa che oggi ha dato il via alla cerimonia di saluto a Dario Fo. Per Radio 24 l'ha seguita Raffaella Calandra, quindi anche nel Sabato del Villaggio volevamo un po' ricordare Dario Fo e andare un po' a sentire quello che è successo oggi a Milano. Ci colleghiamo appunto con Raffaella Calandra. Ciao Raffaella, com'è stata, cosa è stata questa giornata? Guarda, questa, che le note che tu hai fatto sentire hanno scandito forse uno dei momenti più commoventi, questa canzone che Dario Fo aveva composto per la sua amata Franca, che fu anche la sigla proprio della poi della canzonissima che segnò la censura per i due grandi attori dalla TV, dalla Rai. Ecco, è stato il momento più commovente dell'inizio della cerimonia sul sagrato del Duomo, un palcoscenico per il grande attore, per il grande genio, un palcoscenico che nessuno aveva mai avuto, perché il sagrato del Duomo non era mai stato, diciamo, dato per, se non per cerimonie religiose. Ecco, lì sotto una pioggia battente migliaia di persone hanno accompagnato Dario Fo dopo un corteo dallo Streller al Duomo, accompagnato dalla musica anche della banda degli Ottoni, un funerale laico in cui si è ballato, si è cantato, ma anche si è ricordato fortemente l'impegno anche politico oltre che artistico del grande Dario Fo. L'hanno voluto fare nei due interventi che hanno scandito questa cerimonia l'amico Carlo Petrini, soprattutto ricordando con un tono anche polemico come non si possano scindere l'attività artistica, l'impegno artistico di Dario Fo dal suo impegno politico, dal suo impegno accanto agli umili, e ha voluto ricordare le motivazioni proprio che l'Accademia di Stoccolma scrisse nel momento in cui gli conferì nel 97 il Nobel, per aver dileggiato i potenti e invece ascoltato i più umili. Così allo stesso modo anche il figlio Jacopo Fo, che appunto ha avuto uno dei momenti di commozione più forte proprio quando ha voluto spiegare il perché di questa canzone messa all'inizio della cerimonia, ha ricordato tutto quello che i genitori hanno passato, ha detto, ma non hanno mai abbassato la testa e hanno vinto loro rispetto agli altri. Insomma, è stata una cerimonia intensa, una cerimonia molto partecipata. Tanti personaggi delle istituzioni della cultura, ma anche tanti milanesi. Tantissimi milanesi, nonostante una pioggia battente che soltanto sul finire della cerimonia si è attenuata, c'erano le tante anime della lunga carriera di Dario Fo. C'era soprattutto il suo pubblico del teatro, c'erano le anime anche degli ambienti di sinistra che lui aveva frequentato, c'erano anche tutti i vertici del Movimento 5 Stelle a cui Dario Fo si era avvicinato negli ultimi anni. Beppe Grillo ha chiesto il silenzio soltanto quando è uscito dalla cerimonia. Io ho avvicinato la sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha voluto ricordare soprattutto l'entusiasmo dell'artista e anche la sua vicinanza al movimento. C'erano chiaramente con la fascia tricolore il sindaco di Milano Beppe Sala, che anche nei giorni scorsi voluto promettere che la città cercherà in qualche modo di compensare a quello che in vita non ha saputo riconoscere a questo suo artista, a questo suo grande concittadino, che è stato sepolto nel Famedio, il cimitero dei grandi di Milano, accanto proprio alla moglie Franca e accanto a Enzo Iannacci. Grazie a Raffaella Calandra, grazie per essere stata con noi. Noi adesso ci interrompiamo, GR24, poi saremo insieme ancora con un'altra ora del Sabato del Villaggio, che diventa come sempre Radio Tube.